Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. È giovedì 8 agosto 2013, 107esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La voce che state ascoltando è di Camilla Lattanzi in rappresentanza del resto della redazione. Senza indugi vi propongo il menù di oggi. Parleremo del recepimento della direttiva europea 2010/63 sulla vivisezione. Per concludere, vi racconteremo la storia di Paolino, un giovane piccione la cui vita è partita in modo molto avventuroso. Sono 900.000 gli animali che ogni anno vengono torturati e uccisi nei laboratori italiani. Di loro si occupa la direttiva europea 2010/63 UE, che è appena stata recepita nel nostro paese. La seduta si è chiusa con il recepimento dell'articolo 13, che vieta sul territorio nazionale di allevare cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione. E questa norma comporterà anche la chiusura definitiva dell'allevamento Green Hill. Abbiamo chiesto al professor Gianni Tamino, biologo, ricercatore, ex deputato italiano, ex deputato europeo, come commenta il recepimento che, se diamo retta alla retorica ufficiale riportata dalla maggior parte dei giornali e da molte trasmissioni radiofoniche, sembra quasi essere una legge contro la vivisezione. Ma magari, in realtà è proprio il contrario. Questa nuova direttiva e quindi anche il recepimento non fa altro che peggiorare la precedente direttiva. Infatti è vero che un emendamento molto modesto ha stabilito il divieto di allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati, ma non impedisce certo di usare cani, gatti e primati importati da altre parti del mondo. Inoltre, questo emendamento prevede semplicemente delle cose che erano ovvie in passato, cioè l'obbligo di impiegare l'anestesia negli esperimenti, ma in passato, per esempio, non si potevano riusare gli stessi animali più volte, vi erano dei limiti ben precisi per le scimmie antropomorfe, non si potevano usare gli animali randagi. Beh, tutto questo è saltato e nonostante questo modesto emendamento che secondo i vari garattini, secondo gli scienziati pro vivisezione sarebbe addirittura in grado di bloccare la sperimentazione, cosa falsissima, anche perché poi sappiamo quanto sono limitati i controlli in questo campo, dicevo, nonostante questo emendamento, questa nuova direttiva e il recepimento di questa direttiva è un peggioramento rispetto alla situazione precedente, proprio perché si pensi al fatto che, ad esempio, non sono più resi obbligatori quando esistono i metodi sostitutivi alla sperimentazione animale, anzi, praticamente si fa di tutto per negare l'esistenza di metodi alternativi. E il vero problema è proprio lì, non si tratta di migliorare la sperimentazione sugli animali. La sperimentazione sugli animali è un metodo sbagliato perché prima di tutto tratta animali tenuti in gabbia e come tali privati delle loro condizioni naturali. Ora sappiamo da tempo che animali e uomini che sono in condizioni di stress non rispondono in maniera adeguata agli stimoli. Ma anche rispondessero in maniera adeguata risponderebbero come cani, come gatti, come conigli, come ratti, ma cani, gatti, conigli e ratti danno risposte completamente diverse allo stesso stimolo, alla stessa sostanza e sicuramente non è estrapolabile il risultato di uno di questi animali all'uomo e questo è il vero nodo e per questo era fondamentale incentivare e rinnovare il problema di come garantire che metodi scientifici validi possano essere sviluppati. Beh, tutto questo è venuto meno e ha peggiorato la situazione precedente. Tu hai scritto un libro tempo fa che si intitolava Cancro, un male evitabile, nel quale penso che tu metta anche in discussione la sperimentazione animale come metodo che non aiuta certo a fare progressi scientifici sul cancro. Infatti il vero problema è che il metodo della vivisezione è un metodo legato ad una visione della scienza ormai superata, che è quella riduzionista, cioè si pensa che tutto sia spiegabile come una sequenza meccanica di eventi e quindi si paragona ogni essere vivente, uomo compreso, alle macchine e quindi se tutti gli esseri sono spiegabili come macchine, se io faccio l'esperimento sulla macchina topo poi troverò un risultato utile per la macchina uomo. Tutta questa visione è assolutamente falsa, non è vero che gli organismi sono spiegabili come una sequenza di eventi lineari, cerco di farmi capire, cioè un organismo vivente a differenza di una macchina non è spiegabile conoscendo le sue parti, ma solo se si conoscono le relazioni tra le parti. E quello che caratterizza un organismo animale come differenze da un altro sono proprio queste relazioni. Quindi ignorare le relazioni e considerare solo le parti è fuorviante. C'è il pericolo della vivisezione proprio che, oltre a non dare un risultato attendibile neppure per l'animale perché è tenuto in gabbia, ma dà dei risultati che rendono pericoloso quello che si ottiene se riportato alla specie umana. Quindi tutta la sperimentazione sull'uomo sarà pericolosa. Ecco quindi che tutto questo ha portato a risultati estremamente negativi anche nella ricerca sul cancro. Primo perché si è voluto ragionare in termini non di prevenzione ma di cura. In questa logica ammalatevi pure che poi vi guarirò con dei farmaci e se i farmaci vi fanno male vi guarirò dei mali provocati dai farmaci. Ecco che anche il tumore, il cancro in gran parte provocato da fattori ambientali non richiede nuovi stili di vita, cambiamenti a livello ambientale, ma richiede solo un farmaco, un vaccino addirittura che risolve tutto. Una chimera non raggiunta, nonostante le promesse decennali, e proprio in questa logica la sperimentazione animale gioca un ruolo fondamentale, cioè quello di far credere che avendo trovato una soluzione discutibile su un topo, questo valga come soluzione per il cancro nella specie umana. Sono decenni che si dice trovata la cura del cancro, funziona benissimo nei topi, ma nell'uomo non abbiamo avuto nessun risultato. Non ci resta che chiedere al professor Tamino un consiglio su cosa fare da ora in poi. Bisogna fare una battaglia per l'abolizione della sperimentazione sugli animali e realizzare, come chiedono molti scienziati e come propone anche a livello di Stati Uniti d'America l'Accademia Nazionale delle Scienze e l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, di un metodo che sia veramente scientifico, parlano addirittura di rivoluzione della tossicologia per il XXI secolo e molti scienziati parlano della sperimentazione animale come cattiva scienza. Bene, questa rivoluzione non può che passare attraverso la messa al bando della sperimentazione sugli animali e la realizzazione di metodi veramente scientifici. Per fare questo stiamo cercando di raccogliere le firme per quello che è un'iniziativa a carattere europeo riconosciuta come può essere un referendum, che è un'iniziativa che si chiama Stop Vivisection. Chiunque può andare in internet, cercare Stop Vivisection, firmare e contribuire in questo modo alla raccolta su scala europea di 1 milione di firme per mettere al bando questa pratica crudele, inutile e pericolosa per l'uomo. È necessario fare un appello perché da qui a ottobre quelle che mancano vengano veramente raccolte. Questo vuol dire sia andare a firmare nel sito, seguendo le istruzioni, sia eventualmente farsi promotori attraverso la raccolta di firme e anche questo dal sito si può stampare i moduli e raccogliere le firme seguendo le indicazioni. Diamoci da fare tutti quanti. Stopvivisection.eu è una battaglia di civiltà, è una battaglia a favore degli animali e anche per la scienza umana. Grazie Gianni Tamino. Grazie a voi. Avere il becco per accontentarmi delle briciole, concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono, perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno, Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione. Lo so che è brutto il paragone. Però... Era un classico quando ero piccola che i genitori comprassero ai bambini il mais da appositi venditori ambulanti affinché si potesse offrirlo ai piccioni che ne sono golosi. Quando non è più un bambino, però, l'Homo sapiens sapiens menziona questo animale quasi unicamente in senso denigratorio. I piccioni sporcano, portano malattie, sono troppi, vanno scacciati e uccisi, fino alla creazione di autentiche ossessioni e isterie da caccia alle streghe. La realtà è che i piccioni sono animali domesticati dall'uomo, che come al solito è intervenuto pesantemente per selezionare le caratteristiche che potevano essergli utili. Il risultato di questo lavoro sono stati i piccioni viaggiatori, numerose razze ornamentali, le tipologie nefastamente chiamate come piccioni da carne. Da tutti questi animali, largamente manipolati dall'uomo, discendono i piccioni semiselvatici diffusi sia in Italia che all'estero che conosciamo. Il piccione, Columba livia, è una specie non migratrice capace di orientarsi egregiamente e con una capacità di volo impressionante. In condizioni ottimali può percorrere anche 800 km a una media di 70 km all'ora per ritornare alla colombaia o piccionaia di origine a cui rimane legato per tutta la vita. Parliamo di piccioni per via di un episodio accaduto qualche settimana fa a me e Lorenzo, ma che potrebbe accadere a chiunque se i nostri sguardi fossero solo un po' meno distratti. La nostra vicina, Paola, ha trovato un piccioncino giovane incapace di volare. Caduto dal nido, era appoggiato su un'auto in procinto di partire. E se lei non lo avesse visto e salvato, sarebbe sicuramente caduto e prematuramente morto. Morto investito, prima ancora di aver imparato a volare. Ce lo ha consegnato sapendo che non lo avremmo abbandonato. E noi, non sapendo come comportarci, abbiamo portato Paolino, perché questo adesso è il suo nome, anche se non sappiamo se sia maschio o femmina, da un'esperta, la quale lo ha trovato denutrito e disidratato. Ci ha subito detto che c'erano poche possibilità che sopravvivesse e che l'unica cosa da fare era imboccarlo metodicamente, aprendogli delicatamente il becco, dandogli dei semini di cereali e legumi come prescritto. Per bere, con una siringa da insulina, gli dovevamo dare acqua e certe vitamine speciali. In fondo non era troppo difficile. A casa gli abbiamo dedicato una stanza, dato che abbiamo molti gatti, e la porta è sempre rimasta chiusa. Paolino è cresciuto rapidamente e una sera, rientrando in casa, non lo abbiamo più trovato. Ovviamente eravamo tristi, perché non sapevamo se ce l'avesse fatta o se i gatti nostri o quelli del vicinato lo avessero ucciso. Poi il giorno dopo, grande sorpresa. Paolino è tornato a fine mattinata e continua a farlo, giorno dopo giorno, trascorrendo nella sua stanza, che per lui è la sua piccionaia, le ore più calde della giornata. Sta accoccolato su un tappetino, oppure sta su un bracciolo del divano, tutto debitamente coperto da lenzuola e fogli di giornale. È stata una grande soddisfazione aver aiutato un piccione a crescere, vedere che mangia dalle nostre mani, vedere che non ha troppa paura di noi e che si lascia avvicinare. Comunicare con un piccione, certo, è una cosa diversa rispetto a un gatto o un cane. È molto più enigmatico, ma dà ancora più soddisfazione. Il nostro sguardo verso i piccioni è cambiato, ci sembrano più familiari. Troverete nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com una documentazione della nostra convivenza con Paolino. Se vi capitasse di notare un pugno di penne scure incapace di volare, non giratevi dall'altra parte. Noi però alla fine resteremo insieme. Più o meno come fa un piccione. L'amore sopra il cornicione. Vi lasciamo con una frase della scrittrice Anna Maria Ortese. Chi tortura gli animali paga già nella sua miseria. Sono contro la debolezza umana e a favore della forza che le povere bestie ci dimostrano tutti i giorni perdonandoci. Thank you. L'appuntamento con Restiamo Animali, versione extra smolestiva, è per giovedì 15 agosto, sempre alle ore 9.30. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.